Buongiorno Deborah, buongiorno Barbara. Ascolti. E veramente sono Nico, ma se lei vuole chiamarmi Barbara solo tra me e lei, ok. Buongiorno Nicoletta, buongiorno. Ti chiedo di sentirla. Anche per me, grazie Cristiano. E a me non mi saluta, Cristiano? Non mi ricordo il suo nome. Bello. Deborah. Non importa. Cristiano. Io Deborah saluto anche lei molto volentieri. Buongiorno. Lei non è Sant'Antonio da Padova. No, io sono Gianni. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Bicipite, trapezio, grande sale, piccolo rotondo, sterno, clido, mazzaga, flessore, sensore, pronatore, grande sos, brachiale, mediale, deltoide, pettorale. E io rilancio e aggiungo pollici, ginocchia, tibia, perone e perché no, mettiamoci anche le corde vocali. Molte sono le star o gli sportivi che hanno deciso di assicurare alcune parti del loro corpo. Ad esempio il grande Bruce riceverà un indennizzo di 6 milioni di euro in caso di guai permanenti alla sua voce. Non solo, però anche gli sportivi proteggono il loro capitale fisico, lo ha fatto, come abbiamo anticipato, Danilo Gallinari assicurando il suo ginocchio, Alonso che ha scelto di assicurare i pollici al Banco Santander per 10 milioni di euro. Cristiano Ronaldo, che ha deciso di proteggere le sue gambe, o Messi, che paga circa 300.000 euro l'anno per proteggere tibie e perone, valutati d'altronde ben 51 milioni. C'è una parte del vostro corpo che ritenete particolarmente preziosa? Sareste disposti a sottoscrivere un'assicurazione? Ma questo è possibile? Conviene? E soprattutto quanto ci costa? Le assicurazioni a pezzi, o meglio di pezzi del corpo, ci ha incuriosito e ci è venuta voglia di saperne di più. Per questo abbiamo chiamato Roberto Bagnoli, giornalista e fondatore del sito indipendente di informazione assicurativa e previdenziale iomiassicuro.it. Ciao Roberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Roberto, sicuramente questo è un mercato di nicchia. Sì, questo è un mercato di nicchia che riguarda pochi VIP, essenzialmente sportivi e personaggi dello spettacolo con polizze milionarie sia come premi che come somme assicurate. Ci sono appunto calciatori che assicurano le gambe, cantanti che assicurano la voce, attrici che assicurano parti del corpo. Questo appunto è un mercato molto di nicchia, anche se riguarda parecchi sportivi. Sono polizze particolari offerte da molte compagnie che costano parecchio, hanno premi molto elevati. Ma intanto che noi ci facciamo due conti, magari pensiamo quale parte del nostro corpo ci piacerebbe assicurare. 800 24 00 24, se volete parlarne con me e con i nostri esperti. Oggi Deborah non c'è, ma torna domani. Valutiamo quindi insieme, lo valuteremo, le offerte del mercato assicurativo. Io direi che noi potremmo assicurarci sullo stato di salute del nostro apparato muscolo scheletrico, perché è lui che ci assicura una vita autonoma e attiva, ed è su di lui che dobbiamo investire per restare in piedi a lungo. In studio con me oggi è tornato a trovarmi, e io sono molto felice, il dottor Gianluca Melegatti, fisiatra, medico sportivo e primario del centro di riabilitazione dell'Istituto Ortopedico a Galeazzi. Buongiorno Nicoletta, è un piacere anche per me. Dottor Melegatti, noi oggi cerchiamo di mettere in atto tutte le strategie preventive non per restare in piedi a lungo e autonomi a lungo. Sì, la miglior forma di assicurazione, come diceva lei, è la prevenzione, effettivamente. Quindi prevenire vuol dire impostare una vita corretta, una vita sana, avere delle abitudini valide. Mi viene in mente il cammino, il controllo del peso, il movimento soprattutto, l'alimentazione, l'idratazione. Ci sono mille cose che noi possiamo fare per prevenire i problemi, per cui veramente la miglior forma di assicurazione, continua ad essere la prevenzione, è quella meno cara. Esatto. È quella meno cara, tutto sommato, forse costa un po' di fatica mentale e fisica, però poi dà dei risultati straordinari. Roberto, intanto che il dottor Melegatti parlava mi ha convinto e io penso che rinuncerò ad assicurare una parte del mio corpo, lo lascio ai VIP, ma potrei invece fare un pensierino sulle polizze assicurative che riguardano in senso diciamo più generale la nostra salute e in alcuni casi costituire un'integrazione all'offerta del Servizio Sanitario Nazionale. In questo caso l'offerta è più ampia e anche più vicina alle mie possibilità, non credo? Certo, l'offerta è molto ampia, il primo passo da fare è quello di capire molto bene quali sono le proprie esigenze. Sì. Intanto per quanto riguarda la salute ci sono due alternative possibili, una è quella delle polizze individuali, uh-huh. delle polizze sanitarie individuali, e la seconda è quella dei fondi sanitari aziendali o di categoria che riguardano milioni di persone. Dipendenti di grandi aziende o addetti a particolari categorie. Evidentemente se una persona ha la possibilità di accedere a uno di questi fondi, l'alternativa è più conveniente rispetto a quella delle polizze sanitarie individuali. Certo. Senti, polizze sanitarie, facciamo una piccola descrizione super rapida. Ci sono le polizze sanitarie, quelle per gli infortuni, lo dice la parola stessa, ma... Roberto, che cosa? Allora, le polizze sanitarie coprono essenzialmente le spese legate a ricoveri e interventi chirurgici, le spese precedenti e successive a ricoveri e interventi chirurgici. Mm-hmm. Esistono parecchie formule, ci sono quelle che limitano per esempio la copertura ai grandi ricoveri. Sì. Le polizze infortuni rimborsano i danni derivanti da infortunio assicurando un capitale in caso di decesso. Uh-huh. O di invalidità permanente oppure di inabilità temporanea. L'invalidità permanente è la perdita definitiva, sì. totale o parziale della capacità di lavoro. L'inabilità temporanea è quella l'impossibilità di lavorare per un limitato periodo di tempo. Questa garanzia, per esempio, è particolarmente utile per chi lavora in proprio, certo. l'inabilità temporanea. Senti, adesso che però la situazione, cioè, hai descritto in modo più chiaro le possibilità che offre il mercato, a cui aggiungiamo anche quelle polizze che ci tutelano per la perdita di autonomia negli anni, le long term care, di cui magari parleremo nel corso della trasmissione. Roberto, ci dai qualche indicazione dal tuo punto di vista? Mi affaccio su questo mercato, ci sono i fondi, ci sono le polizze sanitarie, quelle per gli infortuni. Verso quale mi oriento? Ma dal mio punto di vista non esiste una risposta valida per tutti i casi, perché tutto dipende dalla situazione personale, familiare. È logico. Eccetera. In linea di massima, secondo me l'infortunio è un evento molto grave contro cui bisogna coprirsi. Sì. È una priorità forse anche maggiore rispetto a quella di acquistare una polizza sanitaria. Perché se io lavoro in proprio, per esempio subisco un incidente grave, la mia perdita di lavorare, di produrre reddito ne viene totalmente compromessa. Quindi sì. questa è una priorità numero uno. Mm-hmm. Per quanto riguarda le polizze sanitarie, ho detto prima, l'alternativa è valutare la possibilità di accedere ad un fondo sanitario, mm-hmm. a livello di categoria. Nelle polizze, se comunque si decide di sottoscrivere una polizza malattia, bisogna stare particolarmente attenti ad alcune clausole che sono particolarmente insidiose. Ad esempio? Ad esempio le esclusioni, cioè i casi in cui la garanzia non opera, per esempio fenomeni di tossicodipendenza, di alcolismo. Esiste poi un periodo che viene denominato carenza, durante il quale la garanzia non opera. Questa clausola serve a evitare che la compagnia rimborsi delle malattie precedenti. Per esempio, ed è generalmente di 30 giorni per le malattie comuni e di 300 giorni per il parto. Cioè, se io faccio una polizza malattia e ho e denuncio un sinistro, in questo periodo non sono coperto. Questo è bene sapere. Dottor Melegatti, lei come medico sicuramente è a conoscenza e ha anche un bel quadro della situazione, certo. riguardo alle polizze, malattie e infortuni. Per il suo caso sono più infortuni, certo. occupandosi di di riabilitazione. Sì, in realtà è così, però c'è tutta una parte di polizze malattia che sono molto importanti, che attengono proprio alle comuni malattie dell'apparato cardiovascolare, dell'apparato respiratorio, dell'apparato digerente. Quindi sono malattie che giustamente molte persone vogliono assicurare. Credo che i premi siano un po' più alti. E poi dipende molto dall'età. Roberto anche. Bagnoli, l'età fa la differenza? Sì, i premi delle polizze malattie sono ovviamente commisurati all'età, diciamo che sono accessibili quando si è giovani e poi mano a mano crescono con l'età. Sì, ma Roberto, per te i giovani e i diversamente giovani, ecco. Quando è che scatta questa la linea? Cosa vuol dire giovani? 20 anni, 30 anni e diciamo quando diventa che tardi? I premi crescono gradualmente col crescere dell'età. Certo. Cioè, se una persona di 60 anni fa una polizza malattia, evidentemente dovrà pagare un premio molto elevato perché il rischio è elevato. Quindi, caro Roberto, quindi la morale è... in questi casi è di partire, si ha intenzione di stipulare una polizza del genere, di partire da giovane. Chi ha tempo non aspetti tempo. E tu, caro Roberto, che sul tuo sito iomiassicuro.it dai consigli a chi si vuole assicurare, che assicurazione hai scelto per te? Io ho un'assicurazione infortuni molto completa, io sono un giornalista freelance, quindi lavoro in proprio, e ho un'assicurazione infortuni molto completa che copre per esempio l'invalidità permanente da malattia, cioè da gravi malattie tipo un infarto, un ictus, eccetera. E ho comunque l'assistenza sanitaria della mia mutua di categoria, della nostra mutua di categoria. Che è la Casagit. E quindi questa è già un'indicazione, lavorate in proprio, siete liberi professionisti, il Roberto Bagnoli vi ha già dato un'indicazione. Grazie Roberto per essere stato con noi. Ciao Nicoletta, grazie a voi dell'attenzione. E come si dice, in gamba, Roberto. Grazie. Ciao. Grazie, buon lavoro. 800 24 00 24, torneremo a parlare di assicurazione sulla salute, ci raggiungerà a partire da mezzogiorno per rispondere alle vostre domande e per affrontare un tipo di assicurazione che si chiama long term care, che è praticamente quell'assicurazione, dottor Melegatti mi aiuti lei, che ci fa mettere le mani avanti e ci fa in qualche modo vivere a lungo tranquilli anche nel caso noi perdessimo l'autonomia, che è quello di cui tutti temiamo. La vita media si è allungata, lo sappiamo, abbiamo aggiunto anni di vita, ma non sempre qualità a quegli anni, e in questo caso ci vengono incontro queste polizze di cui parleremo a partire da mezzogiorno. Quindi se siete interessati, ma anche alla polizza sugli infortuni, sulla malattia, se siete stati in qualche modo delusi dalla vostra assicurazione che vi ha mollato sul più bello, Carlo Marietti Andreani, presidente di AIBA, che è l'associazione italiana broker di assicurazione e riassicurazione, sarà con noi a partire da mezzogiorno, ed essendo un broker farà un po' la parte dell'assicurato e non delle assicurazioni. 800 24 00 24. Ma insieme invece al dottor Melegatti noi vogliamo fare un'assicurazione total body, vogliamo scoprire come assicurare a tutto il nostro apparato muscolo-scheletrico una vita lunga e sana. E dottor Melegatti, avremo da lavorare, perché oggi parleremo di strutture di cui spesso non ci occupiamo, se non quando per un trauma o per usura si danneggiano e ci presentano il conto. Parleremo di articolazioni e quindi nello specifico di tendini, di legamenti, di muscoli, di cartilagini. E di cartilagine. 800 24 00 24. Ricordatevi, perché me lo sono ricordato visto gli occhi di Laura Vanossi, che potete seguirci su Facebook e anche su Twitter, come potete mandarci un messaggio al 349 238 6666. Se resti fermo ti puoi ingannare. Il tempo è fatto d'acqua e di La Ruggia. l'origine non dorme mai, ma il problema vero è che si deposita anche sulle nostre articolazioni. Vi è capitato di recente di avere la sensazione di essere un po' arrugginiti? Attenzione, non è un problema degli anni, perché la ruggine è, può essere anche un problema da giovani. Provo a farvelo toccare con mano. Pensate magari ad una persona intorno ai 40 anni, magari siete voi, avete ripreso a fare un po' di attività fisica, fate il lunedì la partita di calcetto con gli amici, andate in palestra, il dottor Melegatti ride, andate in bici, no? Dottor Melegatti, perfetto, fantastico. Perfetto. E come ho fatto bene, mi magari sento in tennis. Forma, il tennis, il ping pong è valido. Il ping pong, sì. Anche. Anche. Come ti trovo bene, dicono gli amici, anche vostra moglie o vostro marito è contento, vi trovo un pochino più sfilati, insomma tutto bene, ma improvvisamente dovete fare i conti con un intruso fastidioso e molesto. Evviva, ho vinto. Insomma, ne valeva la pena. Eh? Dici che valeva la pena di ridurci così? Secondo me sì, visto che naturalmente ho vinto. Il boss. Noi stiamo andando al fast food, volete qualcosa? Del ghiaccio. Eccolo lì, quel dolore che compare nei momenti meno opportuni. Dite la verità, l'avete sentito anche voi? Avete messo del ghiaccio? Forse avete fatto bene. Dottor Melegatti, a lei. Il quadro che lei ha descritto è perfetto e calza a pennello a un sacco di persone. E sono le persone che veramente dopo un'attività magari sportiva anche di alto intensa in giovane età e dopo una pausa legata magari al primo figlio che arriva, al lavoro, allo stress, al tempo che manca, decidono di riprendere. Sì. Decidono di riprendere e quindi andava tutto bene. Ma poi il dolore è comparso perché la partita di calcetto è stata un po' troppo intensa, perché forse la partita di tennis è stata un pochettino troppo lunga con un partner un po' troppo aggressivo e quindi il dolore è il sintomo che ci veramente fa cadere il mondo addosso in quella situazione, perché andava tutto bene, avevamo riassaporato la gioia del rimettersi in forma e quindi ci sentivamo effettivamente meglio, quindi più flessibili, più forti, probabilmente dormivamo meglio, mangiavamo meglio ed è arrivato invece il dolore. È allora che ci veramente è molto frustrante come situazione, perché ci crea un sacco di dubbi. Abbiamo sbagliato, abbiamo fatto poco, troppo. Come fare per riuscire a riprendere qualche cosa che è così importante, perché tutti dicono che il movimento e lo sport fa bene, però io ho appena cominciato e subito mi sono fatto male. Il messaggio è: non siete da rottamare. Questo assolutamente no, never give up, nel senso che non bisogna mollare, però bisogna ripartire e riconsiderare la cosa e ripartire su una piattaforma inferiore con un aiuto. L'aiuto può arrivare da parte di qualcuno che possa inquadrare com'è la situazione fisica al momento, la vostra situazione, e che vi possa dare dei consigli per poter iniziare e riprendere l'attività sportiva in tutta sicurezza, evitando l'infortunio. E quindi una persona che possa capire quanto siete flessibili, di cosa avete bisogno, quali sono gli sport che in quel momento possono essere adatti o meno adatti per lei. E quindi questa è la chiave per poi riprendere una vita sana e soddisfacente. E significa anche un modo per mettere le basi per mantenere il nostro apparato muscolo-scheletrico in ottima salute o farlo ritornare in pieno benessere. Assolutamente. Quindi oggi abbiamo a disposizione un grande esperto, il dottor Melegatti, che è qui in studio con noi in diretta sino alla chiusura del programma, che vi aiuterà a fare un po' il quadro della vostra situazione e a capire che cosa fare, dove investire, che cosa assicurare per mantenere le nostre articolazioni sane, efficienti, in modo che ci mantengano loro a lungo in piedi, attivi. Andiamo a Davide, che ci chiama da Roma, all'800 24 00 24. Vediamo che cosa ci racconta, se gioca a calcetto e se fa i conti con quell'improvviso dolore che ci fa mettere un po' in discussione tutto il nostro allenamento. Davide, buongiorno. Buongiorno. Eccomi qui, sì, appunto, chiamo da Roma e ho 45 anni. Io volevo parlare con il dottor Melegatti di un problema grosso che sto vivendo in questi ultimi anni. Sì. Perché io praticamente ho le gambe a parentesi, detto gergamente, pare. E avendo poi subito nel passato l'asportazione ad entrambe le ginocchia dei menischi, ha fatto sì che ho consumato precocemente la cartilagine alle ginocchia. Sì. Oggi mi si parla di fare osteotomia, un intervento che da quello che ho capito non è per niente leggero, poi tra l'altro ha tutte e due le gambe, hanno una riabilitazione anche abbastanza lunga. E appunto capire dal dottore se ci erano altre soluzioni a parte questa osteotomia. Certo. Tra l'altro mi dicono di fare ginnastica, ma io non riesco neanche più a camminare. Grazie Davide. Beh. Allora, il problema delle cartilagini al ginocchio è un problema per molte persone, lo affronteremo anche nel corso della trasmissione, per cui chi ha problemi alla cartilagine e anche vuole sapere se può essere in qualche modo recuperata, nutrita, certo, ci chiami subito. Ma dottor Melegatti, per rispondere a Davide? La situazione di Davide è una situazione molto comune, purtroppo. E tutto nasce probabilmente dall'asportazione dei menischi. In passato l'intervento di regolarizzazione e di asportazione del menisco veniva fatto in maniera un pochettino più disinvolta. Adesso si è capita l'importanza totale e straordinaria di questa struttura, senza la quale la cartilagine non ha più l'ammortizzazione necessaria e quindi va incontro a un'usura precoce. Quello che è successo a Davide, il ginocchio si è un po' varizzato, vale a dire è diventato un po' alla John Wayne, e questo ha creato ancora più sovraccarico nella parte interna del ginocchio di Davide, dove è il dolore. Se il dolore è continuo, è chiaro che bisogna veramente correre ai ripari, e quindi tutti i presidi conservativi, cioè non chirurgici, probabilmente non servono. Parliamo di condroprotettori, parliamo di acido ialuronico, rinforzo muscolare, probabilmente siamo a un passo un pochettino più, un po' oltre, e quindi intervento di osteotomia. Ci sono alcune correnti di pensiero che consigliano all'età di Davide l'osteotomia, che è il riallineamento dell'arto per distribuire meglio il carico, certo, e non farlo gravare. Ma un'altra opzione per Davide potrebbe anche essere quello della protesizzazione, quindi pensare anche a una protesi o monocompartimentale, cioè che sistemi solo la parte danneggiata, o una protesi totale. È chiaro che poi a seguito della protesi, ma anche dell'osteotomia, bisogna ridimensionare tutta la propria attività e pensare a delle attività poco aggressive. 800 24 00 24, dottor Melegatti, lei ha una risposta e una soluzione per tutti. Oggi giocheremo in prevenzione, abbiamo letto che ci sono le assicurazioni e le riassicurazioni. Cuore e denari. Test a spalla baby, 1, 2, 3. Test a spalla baby, 1, 2, 3. Test a spalla, test a spalla, test a spalla baby, 1, 2, 3. Cola cola baby, 1, 2, 3. Cola cola baby, 1, 2, 3. Cola cola, cola cola. Test a spalla baby, 1, 2, 3. Punta d'acqua baby, 1, 2. E noi continuiamo ad assicurare lo stato di salute delle nostre articolazioni. Stanno arrivando tantissime domande all'800 24 00 24, si accettano anche consigli e raccomandazioni. In studio con me il dottor Melegatti. Le leggo anche un messaggio dei tanti. Buongiorno, faccio attività in palestra e da poco si è infiammata la spalla. Sento un dolore soprattutto di notte. Che devo fare? Dato che abbiamo iniziato con questa canzone, testa spalla, noi ci fermiamo proprio alla spalla, ma poi facciamo anche una piccola deviazione al collo. Obiettivo di questi minuti vogliamo fare delle fermate straordinarie per capire come è la situazione delle nostre articolazioni. Partiamo dalla spalla per raccogliere la richiesta del nostro ascoltatore, ma poi lei ci dirà come valutare lo stato di salute delle braccia, delle anche, delle ginocchia. Piccola autovalutazione. Dai, mi piace. Beh, intanto rispondiamo al problema della spalla. Bisogna capire da che cosa è stato generato questo problema della spalla, e quindi bisogna che l'ascoltatore mentalmente valuti gli esercizi che sono stati più fastidiosi e quali di questi hanno generato il dolore durante l'effettuazione di tali esercizi. In quel caso bisogna rivolgersi a un istruttore e cercare di capire se l'esercizio è stato o viene compiuto in maniera corretta, soprattutto dal punto di vista sia della postura che dei carichi. È sicuramente un problema tendineo inserzionale. Di tendine e di legamenti parleremo naturalmente nel corso della trasmissione, perché non bisogna tirare troppo le corde. Se vogliamo, tendini e legamenti sono a tutti gli effetti delle corde, ma non sono solo questo, sono anche proprio dei sistemi degli organi di senso, come lei ci ha detto più volte. Farei un saltino a Padova e poi andrei a capire un po' lo stato. Facciamo questo autotest di valutazione con il nostro esperto. Andiamo a Padova e già che ci siamo facciamo anche un saltino a Venezia, perché siamo proprio lì vicino. Luca, buongiorno. Luca? Buongiorno. Sì, mi sente? Sì, la sento bene. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Grazie anche a lei, complimenti per aver chiamato. Ha fatto la scelta giusta. Allora, ecco, io le farei una situazione veloce. Bravo. 20 anni di pallavolo a livelli medi. Ho iniziato, sono rimasto fermo alcuni anni, poi ho ripreso con mountain bike e corse di trail running in montagna. Ho fatto l'ultima gara ad agosto, avendola preparata solamente per 2 mesi, ecco. 170 km, 10.000 metri di dislivello. Luca, ma lei ogni tanto lei dorme oppure... Ogni tanto sì, non molto per la verità. Ecco. Allora, venga la domanda, insomma ne ha fatte di ogni, come si dice, e la domanda qual è? Ecco, la domanda è, adesso ho un'infiammazione al tendine di Achille destro, che è quasi il doppio del normale, sì, e al sinistro invece ho una calcificazione. Allora, dottor Melegatti, per un sedentario che sente Luca dice un po' se l'è andata a cercare, no? Sì, però lei non può dirlo perché fa il dottor. No, ma non lo voglio dire, anche perché le persone come Luca a me piacciono, nel senso che 20 anni di pallavolo a buoni livelli vuol dire aver passato sicuramente una gioventù felice nello sport, ma con qualche problema postumo poi. Certo. 20 anni di pallavolo possono mettono sotto stress il nostro apparato locomotore, soprattutto i tendini. Il tendine rotuleo, il tendine achilleo possono avere dei problemi. Non è un caso che l'achilleo di Luca si sia fatto sentire adesso con la ripresa di un'attività così aggressiva. Per cui nello specifico quello che consiglio a lui è, per l'achilleo destro, intanto affrontare il problema in modo conservativo, cercando di affrontare un periodo di riposo relativo e della fisioterapia, magari con l'utilizzo di terapie fisiche come TECAR, e un ricondizionamento del tendine e del tricipite surale. Sto parlando di lavoro eccentrico. Mentre per quanto riguarda l'achilleo sinistro, mi pare di aver capito, una calcificazione. Sì. Ecco, quella calcificazione andrebbe affrontata in maniera più drastica, probabilmente con un intervento chirurgico. Magari prima un trattamento con onde d'urto per vedere se queste possono migliorare la situazione. Nel caso, un intervento chirurgico. Com'è possibile salvare i tendini, evitare quindi di avere i problemi con il più famoso è il tendine d'Achille, ma non c'è solamente lui. Certo. Che cosa stressa i nostri tendini e come si lamentano? Quello che stressa i tendini è il sovraccarico, quindi è effettuare un esercizio oppure impegnarsi in un'attività sportiva senza dare la possibilità ai nostri tendini di riposare. Mm-hmm. Ci vuole un periodo di adattamento ai carichi e di riposo, per cui la partita di tennis sul sintetico per 2 o 3 giorni consecutivi potrebbe essere troppo aggressiva per un tendine di un quarantenne che magari non ha fatto nulla per i mesi precedenti, ma arriva l'estate, 3-4 giorni di fila e arriva la tendinite. Quindi bisogna dare il tempo ai nostri tendini di adattarsi ai carichi progressivi e ad essere trattati bene. Non dimentichiamo che i tendini risentono molto anche della situazione generale, l'idratazione per esempio, la flessibilità, quindi vanno curate flessibilità del nostro apparato muscolare e l'idratazione, sempre così importante. Andiamo ad Alessandro, gliel'avevamo promesso, ci chiama da Venezia, 800 24 00 24. Naturalmente aspettiamo le vostre telefonate. Vi ricordo che a Di Assicurazioni torneremo a parlare non solo del, per assicurare il nostro apparato muscolo-scheletrico, però parleremo di polizze e parleremo di, in particolare di quelle polizze che ci permettono di metterci al riparo, no, da eventuali problemi nel caso di perdita di autonomia. Si chiamano long term care, ma ci sono anche delle alternative, quindi se volete restare con noi 800 24 00 24. Intanto vi porto a Venezia. Buongiorno ad Alessandro. Buongiorno. Vada Alessandro, che ci racconta? Volevo chiedere al dottore cortesemente, premetto che io faccio palestra 3 volte alla settimana, niente, volevo chiedere come prevenire il consumo della cartilagine. Grazie, bella domanda, una domanda da 1000 punti a cui il dottor Melegatti risponderà. È una bella domanda questa, anche perché in genere l'usura della cartilagine dipende da molti fattori, dipende per esempio da traumi pregressi, dipende da una situazione di instabilità articolare. Quando abbiamo un'articolazione instabile, questa articolazione, se non viene stabilizzata o attraverso un intervento chirurgico o attraverso un lavoro muscolare, altera la distribuzione dei carichi e la cartilagine ne risente e poi va naturalmente poi degenera. Allora, come fare per prevenire? Intanto cercare di evitare carichi eccessivi su quell'articolazione che magari ci dà un po' di fastidio. Mantenere la flessibilità è fondamentale, che le nostre articolazioni possono avere un range di movimento completo, e questo lo possiamo ottenere grazie alla flessibilità e quindi esercizi di stretching. A proposito di questo, accennavamo prima a quei test semplici, esatto, di autovalutazione. Potremmo farlo qui perché sono molto semplici e sono relativi proprio alle principali articolazioni. Ad esempio, il rachide cervicale. Come accorgersi se la postura del nostro collo e del nostro capo non è perfetta? Bene, in piedi appoggiamoci a un muro e cerchiamo di far toccare il nostro corpo al muro nei 3 punti fondamentali, vale a dire a livello del sedere, dei glutei, sì, a livello del rachide dorsale in mezzo alle scapole, quindi sì, alle spalle, e a livello della nucca. Sì, se il coppino praticamente. Se ci accorgiamo che il coppino fa molta fatica a toccare il muro, vuol dire che abbiamo un atteggiamento scorretto e dobbiamo lavorare proprio su quello per recuperare una migliore posizione del capo. Sì, perché sennò sforziamo sempre tutte le articolazioni, la postura non corretta fa lavorare sotto sforzo tutte le articolazioni e mette sotto stress per esempio i muscoli del collo e quindi cervicalgia tensiva eccetera. Le spalle, molto semplice, rimaniamo appoggiati al muro, però incrociamo le nostre dita dietro la nucca, sì, e portiamo le spalle all'indietro e cerchiamo di fare in modo che con il nostro tratto dorsale appoggiato al muro anche i gomiti arrivino al muro. Se ci accorgiamo che i gomiti non riescono ad arrivare al muro, vuol dire che la nostra cosiddetta cinghia anteriore, vale a dire tutta l'apparato muscolare anteriore delle nostre spalle, non è abbastanza flessibile, quindi lavoriamo su quello. Un'altra cosa molto semplice, l'anca. Cerchiamo di accavallare le gambe. Se ci accorgiamo che non ci viene naturale accavallare la sinistra come facciamo con la destra o viceversa, quindi se ci accorgiamo che una riusciamo a cavallarla facilmente, stiamo comodi, e quell'altra un po' meno, beh, allora cerchiamo di lavorare sulla mobilità dell'anca che riusciamo ad accavallare con meno piacere. Il ginocchio è importante. Molto spesso la causa di un problema degenerativo articolare è la mancanza di estensione del ginocchio. Il ginocchio deve essere esteso, noi dobbiamo evitare di camminare con un ginocchio leggermente flesso, e allora ci sdraiamo a terra e facciamo con le gambe estese davanti a noi, cerchiamo di fare in modo che la parte posteriore del nostro ginocchio, che si chiama poplite, tocchi il pavimento. Se questo non succede, vuol dire che abbiamo un ginocchio leggermente flesso e dobbiamo lavorare attraverso posture, consigli validi per recuperare l'estensione. Vi anticipo che questa spiegazione, questo test di autovalutazione del dottor Melegatti, che vedo sta piacendo a molti perché ci state scrivendo al 349-238-6666 per raccontarci il vostro apprezzamento, verrà tagliato, trasformato in un piccolo boxino e voi potrete riascoltarlo andando sulla pagina di Cuore Denari. Voilà! Cuore e denari. Ed eccoci tornati insieme. Oggi ci assicuriamo a tutto tondo. Parleremo di polizze, continueremo a parlare di polizze sanitarie. Parleremo di anche di queste polizze che a me iniziano a interessare molto, dottor Melegatti. Non so a lei, queste long term care. Perché, no, assolutamente. Insomma, la vecchiaia. Possono risolvere problemi che diventano veramente. Noi vediamo problemi sociali, problemi importanti. 800 24 00 24. Ma se voi invece volete stare nel qui e ora e quindi capire che cosa possiamo fare adesso sul nostro apparato muscolo-scheletrico per salvaguardare le nostre articolazioni, che sono essenziali, no? Per garantirci l'autonomia insieme al cervello, perché non possiamo dimenticarci, no? Anche di questo magnifico regista che regola un po' la nostra vita, ma insomma bisogna avere cervello ma anche gambe, e buone gambe, ed è quello che cercheremo di fare oggi con i consigli del dottor Melegatti, che è pronto a rispondere alle vostre telefonate all'800 24 00 24. Andiamo a Elisa, che ci chiama dalla provincia di Monza Brianza. Buongiorno Elisa. Sì, buongiorno Nicoletta, buongiorno dottore. Io volevo fare una domanda molto veloce. Volevo sapere se il Pilates può essere considerato una terapia preventiva in merito all'argomento che state trattando. Sì, in realtà Elisa, posso dirle che lo è. Il Pilates, se fatto bene da personale esperto, è un eccellente metodo per mantenere flessibilità e forza in modo poco traumatico. È chiaro che ci vuole anche una valutazione per capire che tutti siano adatti a questo, però in generale sì, le dico che il Pilates è un eccellente metodo per mantenere una buona tutela delle nostre articolazioni. Essere e benessere. Riposa un poco i tendini, asciugati e riprendi. Oramai lo sai, il mio sguardo sa difendersi, ma è capace anche ad arrendersi. Allora, non tirate troppo la corda, Tiziano Ferro docet. Evitiamo di strafare o di non fare nulla di corde che tiriamo involontariamente, ne abbiamo tante. Abbiamo iniziato a parlare dei tendini, ma parleremo anche dei legamenti. 800 24 00 24. Andiamo a sentire che cosa ci racconta Enrico da Bassano e poi facciamo un salto al mare, dottor Melegatti, perché abbiamo Pino da Genova. Enrico, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno dottore. Buongiorno a lei. Sta bene Enrico? Allora, sto abbastanza bene, grazie. Bene, mi piace. Allora, all'inizio del mese sono stato operato al menisco. Sì. Premetto che sono 1,90 m e peso 100 kg gagliardi. Gioca a rugby? L'ho fatto. Quanti anni ha Enrico? 50 anni. Ok. Allora, ho avuto un decorso secondo me fortunato, nel senso che in un paio di giorni ho fatto a meno delle stampelle e poi pian piano ho recuperato la mobilità senza grossi problemi. La mia domanda è questa: io vorrei capire, prima si parlava di non forzare troppo, cosa non devo fare in questo periodo, perché mi viene voglia di andare a farmi una corsetta, di farmi una biciclettata, però non ho idea se posso dare dei problemi all'articolazione come messa adesso. Ma Enrico, le dico che 1,90 per 100 kg con rugby alle spalle, io starei un po' cauto. Lei è stato operato al menisco e sicuramente è stata una scelta corretta. Devo pensare che è stata una scelta corretta da parte chi l'ha operata, nel senso che non c'era alternativa. Detto questo, senza menisco è chiaro che la sua cartilagine è un po' meno protetta. Se penso al rugby, ai 100 kg e a 1,90, posso pensare anche che la sua cartilagine in questi anni sia stata parecchio sollecitata. Allora, non è mi fanno prendere un prodotto che si chiama, non so se posso dirlo in radio, è il protocol. Sì. Che mi dicono che dovrebbe darmi una mano proprio per le cartilagini. Ecco, io ringrazio molto Enrico perché volevamo proprio approfondire che cosa spesso per le cartilagine ci vengono date. O suggerite delle diete o degli integratori o altro. È corretto. No? Ecco, vogliamo capirne un pochino di più, quando utilizzarli, se è un ciclo di cura, se invece dobbiamo utilizzarli per sempre, se ci sono delle controindicazioni. Sì, è un argomento molto importante, è un integratore, non è un farmaco, è un integratore che funziona, quindi a Enrico io consiglio di continuare a prenderlo, non conosco questo prodotto, ma credo che sia un prodotto a base di condroitin solfato, glucosamina, sicuramente, e se in dosaggi corretti protegge la cartilagine, quindi è un integratore che io consiglio di prendere a Enrico, non solo a lui, ma a tutti quelli che vogliono proteggere le cartilagini. Per quindi, 6 settimane. Quindi tutti. Quindi praticamente tutti. A partire da che età? In genere a partire dai 40 anni, ma anche prima se si hanno avuti dei problemi o si hanno dei problemi articolari, problemi cartilaginei. In genere lo consiglio per 6 settimane ogni 2 mesi. Per ritornare velocemente a Enrico, non consiglio ad Enrico per i prossimi 2 mesi un'attività troppo aggressiva, quindi niente corsa, ma consiglierei nuoto, bicicletta e camminate veloci. E poi gradualmente la ripresa della corsa, una volta che Enrico ha recuperato un buon controllo muscolare. Andiamo a Pino, gliel'avevamo promesso, la raggiungiamo a Genova, 800 24 0024, benvenuto e buongiorno. Grazie, buongiorno a voi, grazie di avermi chiamato. In parte forse il dottore ha già anticipato quella che è la mia domanda. Io sono stato operato 4 anni fa all'anca, quindi la protesi totale all'anca, per un'insufficienza ischemica, quindi non una cosa ereditaria. Sì. E adesso io ho il terrore da 4 anni, ho ripreso a correre dopo perché mi sentivo un leone, ho la muscolatura molto buona delle gambe. Però dopo un po' io un po' di fastidio alla destra ce l'ho, anche se faccio i controlli e non c'è nulla se non insomma una normale usura della cartilagine insomma, e quindi io prendo da 4 anni praticamente quasi tutti i giorni la cartilagine di squalo. Faccio bene, faccio male. Cosa devo fare? Non posso correre, sono ripreso nuoto. Quanti anni ha? 49 anni. La protesi è a sinistra, giusto? È a sinistra. E il dolorino è cominciato a destra? A destra, allora. Sì, ho dei fastidi ogni tanto. Mi sembra che l'articolazione sia abbastanza flessibile, anche se io stretching ne faccio poco. Allora. Quindi io me ne accorgerei adesso se ci fosse un problema grosso, perché ho l'esperienza della sinistra. Però ecco, qualche fastidietto lo sento. Mantenga io sempre la cartilagine di squalo, insomma, io mi rivolgerei a altro, nel senso a condroprotettori diversi, condroprotettori che contengono condroitin solfato e glucosamina, come le dicevo. Gli squali li lasciamo lì. Gli squali li lasciamo dove, nel dove mare. Sì, dai. Un'altra cosa volevo dirle importante: cerchi sempre di monitorare la flessibilità delle anche, soprattutto la destra. Cerchi di capire se l'esordio del dolore a sinistra era simile a quello della destra attuale. Non credo, non viva nel terrore che possa succedere anche a destra, perché non è assolutamente detto. Mantenga il peso corretto, cerchi di camminare, le do un consiglio preciso, cammini almeno mezz'ora, faccia 10.000 passi in mezz'ora al giorno per 5 giorni della sua settimana. 10.000 passi in mezz'ora vuol dire 1.000 passi, 10 vuol dire 100 passi al minuto, ed è una velocità di cammino, un passo veloce, moderato, ed è molto utile perché mantiene, controlla il peso, controlla, le permette di non gravare troppo sulle articolazioni. Però non riprenderei la corsa, le do un dispiacere, ma non riprenderei la corsa. Insomma, non tiri troppo la corda. Esatto. 800 24 0024 se volete assicurarvi con noi. Cuore e denari. Ed eccoci finalmente tornati insieme, sono le 12:10, oggi Deborah non è con me ma tornerà domani. Oggi abbiamo assicurato con i consigli del dottor Melegatti lunga vita e tanta salute al nostro apparato muscolo-scheletrico. Ci siamo concentrati sulle articolazioni, quindi su tendini, legamenti, cartilagine. A proposito, dottor Melegatti, lei ha suggerito gli integratori per mantenere sane le nostre cartilagini. Un'ascoltatrice, Bruna da Cuneo, mi scrive se gli integratori per la cartilagine a base di acido ialuronico sono meglio di quelli a base di glucosamina. Quindi evidentemente due prodotti diversi, forse con delle indicazioni diverse, dottore. Sì, in realtà molti integratori prevedono la presenza di entrambe le sostanze, però le dico che l'acido ialuronico è meglio utilizzarlo in maniera diretta attraverso una infiltrazione intraarticolare, quindi è meglio metterlo direttamente nell'articolazione perché riesce ad avere una azione di grande protezione per la cartilagine. Esistono studi ormai che dimostrano questo, perché migliora di molto l'ambiente articolare un po' provato dagli anni, dall'usura e quindi dall'artrosi. Sono dolorose le infiltrazioni e presentano dei rischi di infezione, ad esempio? È chiaro che esiste un rischio remoto di infezione, ma naturalmente dipende dall'operatore, quindi dalla cautela della sepsi, quindi dall'impiego di metodiche assolutamente sicure, e non è dolorosa. Quando lei parla dell'operatore, chi è l'operatore che può fare questo tipo di infiltrazioni? È un medico, in genere è un ortopedico, un fisiatra, è un reumatologo, tutti medici che si occupano di tutela dell'ambiente articolare. Quindi è una figura professionale ben precisa, deve avere una laurea in medicina. Deve essere un medico. 800 24 00 24, come abbiamo promesso, oggi vogliamo dare anche spazio a tutte le vostre domande che riguardano le polizze sanitarie. Per assicurare la nostra salute, con il dottor Melegatti abbiamo assicurato il nostro apparato muscolo-scheletrico, ma ci sono delle polizze che assicurano la salute total body, diciamo, dell'assicurato. E in linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Carlo Marietti Andreani, presidente di AIBA. AIBA è l'associazione italiana broker di assicurazione e riassicurazione. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno dottoressa e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io sono Nicoletta, mi piace di più. E intanto Nicoletta e buongiorno a tutti. Grazie dottore, volevo chiederle, lei quindi sta dalla nostra parte essendo broker, giusto? Essendo broker, siamo degli operatori che operano sul mercato dietro incarico dei clienti e che quindi operano sul mercato per loro conto, confrontandoci con il mercato assicurativo. 800 24 00 24. Salva Danaio. Era ancestrale il gesto tropicale, un arco dal sereno al fortunale. Per dirti quanto è grande la questione fra il danneggiato e l'assicurazione. Per chi si fosse sintonizzato solo ora, possiamo dire dottor Melegatti, peccato, sfortunato lui, ricordiamo che oggi stiamo parlando delle assicurazioni anche sanitarie, quelle polizze che il privato può stipulare per garantirsi particolari servizi sanitari in caso di necessità. Abbiamo subito, dottor Marietti Andreani, per lei una domanda che arriva da Claudio da Roma all'800 24 00 24 e poi andremo a parlare di queste assicurazioni che ci tutelano nel caso con gli anni perdessimo autonomia. Claudio, buongiorno. Buongiorno a voi. Dunque, volevo fare questa domanda. Se e quando si compila, c'ho un ritorno fortissimo in cuffia. Noi la sentiamo bene, Claudio, mi spiace per lei. Ah. Vada veloce che così non le... Vada. Ecco, forse così non ho ritorno in cuffia. E noi la sentiamo allora, comunque bene, grazie. Il problema è questo. Se uno, quando compila il modulo di anamnesi per stipulare una polizza sanitaria, sì, dimentica per caso una malattia pregressa, può capitare, ma una qualsiasi. Io ho sentito dire che In caso di infortunio, intendo infortunio, cioè una malattia, sì, l'assicurazione può rifiutare il rimborso, però sì, è molto semplice, perché è decaduto il rapporto di fiducia tra assicurato e assicuratore. Certo. Allora, chiediamo al nostro esperto, dottor Marietti Andreani, insomma, basta una piccola dimenticanza per mandare in fumo tutto? A volte sì. Qui bisogna stare molto attenti al contenuto normativo della polizza di assicurazione che si va a sottoscrivere, perché non sono tutte uguali, nel senso che alcuni contratti escludono esplicitamente l'efficacia delle garanzie relativamente alle patologie che si sono manifestate anteriormente alla stipulazione del contratto. Altre, con una sfumatura diversa ma importantissima, prevedono questa esclusione solo per le malattie già note all'assicurando, altre prevedono la normale efficacia delle garanzie anche su questa ipotesi, trascorso un periodo che gli assicuratori chiamano di carenza, cioè sì, una specie di franchigia temporale prima che la garanzia assicurativa sia efficace. È importantissimo verificare questo passaggio nel momento in cui si va a stipulare una polizza per capire in sostanza che cosa si sta comprando, ed è fondamentale l'assistenza da questo punto di vista, vuoi dell'agente di assicurazione che opera per conto della compagnia ma che ha tutto l'interesse evidentemente a un rapporto corretto, certo, e limpido con la clientela, sia da parte del broker. Perché spesso anche il costo della polizza di assicurazione è ovviamente in funzione del tipo di liberalità, diciamo, al momento assuntivo da parte dell'assicuratore. Dottor Marietti Andreani, questa in un certo senso, descritta dal nostro ascoltatore, è una trappola. Quali sono le altre trappole su cui lei vorrebbe aiutarci a porre attenzione per evitare poi di mandare tutto all'aria? O di trovarci assicurati non nel modo in cui a noi servirebbe? Allora, sono parecchi in un contratto di assicurazione gli argomenti, diciamo, difficili, perché non nascondiamoci dietro un dito, le polizze di assicurazione sono scritte in maniera, per usare un eufemismo, articolata, ma sì, sicuramente non aiutano la facile comprensione. Un po' come, allora, un po' come i referti medici, no? Non si capisce nulla. Siete in questo caso, siete, va bene. Sì, da questo punto di vista c'è anche da dire che spesso bisogna valutare da parte degli assicuratori o da parte dei clienti, tramite il nostro intervento, anche delle cartelle cliniche che non sono di facilissima lettura. Non sono di facile lettura perché in alcuni casi usano dei termini estremamente tecnici, sì, dal punto di vista medico, e poi perché la calligrafia dei professionisti medici notoriamente non brilla in qualche caso per chiarezza. Dottor Melegatti, questo è per lei, ma dottor Marietti Andreani, in tre punti, proprio sinteticamente, ABC, prima di passare a queste polizze per... Allora, il periodo di carenza o l'esclusione per le patologie insorte o manifestatesi anteriormente alla stipulazione del contratto, sì, i limiti di indennizzo, i cosiddetti massimali, sì, e gli scoperti e le franchigie, che sono in sostanza la percentuale nel caso dello scoperto o la quantità economica nel caso della franchigia che rimane a carico dell'assicurato stesso. Un'ulteriore attenzione, soprattutto nel caso di ricovero o di accertamenti diagnostici significativi, valutare se il contratto prevede la possibilità di non dover anticipare i costi della prestazione nel caso in cui ci si rivolga a dei centri convenzionati con il circuito predisposto dall'assicuratore stesso. Andiamo a sentire Luciano che ci chiama da Como all'800 24 00 24 perché è un ascoltatore che in qualche modo lega i due temi di cui si è occupata oggi, cuore e denaro. Luciano, buongiorno. Buongiorno, la mia domanda è questa. Ho avuto una lesione dovuta a, al tentativo di tenere in piedi la mia moto di 2 quintali, ho strappato i tendini. Oh, che dolore. Cosa succede? Che io non sono andato immediatamente al pronto soccorso, sperando di stare meglio. Ho fatto subito richiesta presso il mio medico di le radiografie, me le hanno fatte, sono venute pronte dopo 2 mesi. Sì. E adesso ho effettivamente la lesione accertata. Ho proposto tutta la mia assicurazione, i quali mi dicono che ho sbagliato tutta la procedura, non sono andato in tempo al pronto soccorso e adesso è troppo tardi, mi scusi, per avere un risarcimento. Attualmente avrei bisogno di fare l'operazione, perché certo, i tendini da soli non si aggiustano. I tendini da soli non si aggiustano, dottor Melegatti. Ma quali tendini? Di quali tendini parla? E quale moto? Luciano? E quale la moto? Spalla. La spalla, quindi. La spalla. Una lesione della cuffia dei rotatori, probabilmente. Sono 2 tendini strappati, ma certo, non definitivamente. Mi fanno ancora male a distanza di 6 mesi. Però non sono strappati definitivamente, ma dalle radiografie e dalla risonanza magnetica risultano danneggiati. Sì. Ecco, allora, qui c'è, diciamo, il tendine, è un po' delicato l'argomento. Sì, perché lui ha voluto tirare sulla moto e... Sì, ma poi l'assicurazione difficilmente risarcisce patologie tendine, perché pone sempre il dubbio della patologia degenerativa di base. Per questo noi oggi abbiamo fatto una puntata col dottor Melegatti, così ai tendini ci dobbiamo pensare noi, le assicurazioni ai tendini, i tendini non li risarciscono, dottor Marietti Andreani? Dipende, nel senso che, come dice correttamente il dottor Melegatti, immagino che stiamo parlando di una polizza infortuni, sì, ritengo, e del caso di una possibile invalidità permanente, con una quantificazione dei postumi da identificare, da quantificare. Ma intanto la polizza infortuni, come dice il nome, e qui mi rifaccio all'osservazione del dottor Melegatti, entra in azione nel caso di infortunio. Per infortunio si intende una causa fortuita, violenta ed esterna che produce delle lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sì. Allora, molto spesso è un caso, per esempio, tipico per il tendine d'Achille, per esempio, dei calciatori o di alcuni sportivi. L'obiezione dell'assicuratore, a volte fondata, è che non si tratta di una causa violenta ed esterna, ma di una degenerazione progressiva della caratteristica del tendine, sì, no? Che arriva a un certo punto e poi si rompe, salta. Insomma, è la classica goccia che fa traboccare il vaso, in questo caso sì, fa certo rompere senso il tendine. In Quindi, questo caso, dal punto di vista assicurativo, è difficile dire a priori se siamo o meno in una fattispecie coperta dalla polizza infortuni, perché dipende appunto dalla valutazione del fatto che si rientri o meno nella categoria concettuale dell'infortunio anziché della malattia. Qualora fossimo nel campo dell'infortunio, mi verrebbe peraltro da contestare l'eccezione che l'ascoltatore riporta da parte dell'assicuratore, perché l'onere di quello che in gergo chiamiamo aprire un sinistro, quindi sì, fare una denuncia di sinistro alla compagnia, scatta nel momento in cui io ho assicurato, ho la percezione che il danno che ho avuto possa generare l'invalidità permanente che stiamo ipotizzando. Altrimenti io dovrei, o tutte le volte che alzandomi dalla scrivania picchio il ginocchio sulla scrivania stessa, invadere tutti i pronti soccorso della città, no? Per precostituirmi un iter, certo, una base documentale per poi rivolgermi all'assicuratore. Questo, il dottor Melegatti, ho visto che è molto interessato a questo tema. Ma perché è correttissimo l'approccio del dottor Marietti Andreani, è così, nel senso che anche a me è capitato di sentire di pazienti che si sono lamentati con la propria compagnia di assicurazione perché non riconosceva la validità appunto del certificato, perché era tardivo. Però in effetti non sempre uno può aprire un infortunio a seguito di un banale. Bisogna capire se questo infortunio poi avrà un certo sviluppo e darà adito poi a una invalidità permanente o comunque a una lesione. Dottore, io oggi volevo anticipare il tema di queste polizze che adesso che la vita media si è allungata potrebbero in qualche modo tutelarci dalla perdita dell'autonomia quando diventiamo anziani. Il tema per affrontare il tema in modo, no? Come si fa a cuore denari, ci vorrebbe una puntata intera. Vuole anticiparcelo, darci un assaggino, che cosa sono, a chi sono consigliate, a partire da che età? Poi dedicheremo proprio una puntata per assicurare la salute della nostra vecchiaia. Dottore. Allora, ci sono effettivamente da qualche anno degli strumenti che noi definiamo un po' innovativi, sì. Anche se faticano a prendere piede sul mercato italiano per una serie di considerazioni che poi eventualmente ci scambiamo. Ma concettualmente l'approccio tradizionale, sì, era rappresentato da due soluzioni assicurative. Uno, il rimborso delle spese mediche che sostengo per curarmi, sì, quindi se ho un ricovero ospedaliero o visite specialistiche o accertamenti diagnostici connessi, che è quello anche di cui parlava, la situazione di cui parlava il primo ascoltatore, sì, che ha il difetto concettuale, anche se non serve chiedere di più, che rimborsa delle spese vive sostenute. Sì. E una volta che è esaurito il ciclo della patologia, la polizza poi non opera più, evidentemente fino a un'eventuale, sì, successiva situazione. Ma, dottor Marietti, devo chiederle proprio di andare proprio all'essenziale perché abbiamo meno di un minuto. Allora, le novità sono le polizze cosiddette long term care o parenti, le critical illness o dread disease. In sostanza, la prima formula, che è la long term care, mi garantisce una rendita e in alcuni casi anche un capitale iniziale, sì, nel momento in cui io non sono più in grado di svolgere una serie di funzioni di autosufficienza, quindi dall'alzarmi, sì, da solo dal letto, lavarmi, nutrirmi, esatto, una serie di funzioni che sono identificate nella polizza di assicurazione. Poi ci sono, se vogliamo, delle varianti, ma mi dica solamente da che età è meglio iniziare a pensare, da che età ci si assicura per non pagare, allora, troppo? L'ideale sarebbe cominciare a preoccuparsi molto da giovani, perché, sì, evidentemente il costo dell'assicurazione, certo, è influenzato fortemente dall'età iniziale. E ma lei suggerisce non superiore a 50 anni? Diciamo che partire dopo i 50 anni comincia già a essere parecchio oneroso. L'idea sarebbe riuscire a partire un po' prima. Io la ringrazio, la invito per una prossima puntata insieme a Deborah. Ringrazio il dottor Melegatti e vi ricordo che domani con il sole esce l'Istan Book gratuito, il dizionario della casa e di casa e di atmosfere, di aria di casa. Parleremo in occasione proprio a cuore denari. Grazie a tutti, dottor Melegatti. Grazie. Grazie, a domani.